sia d'inchiostro in onda il foglio. Proprio mentre pensavo di scrivere qualcosa, scrivere, pensare qualcosa, l'inchiostro branda al foglio come sangue nero. Il foglio è ferito, verde inchiostro. Scrivere, pensare, morire. Il foglio ferito impazza di dolore, accanto già tondeggia qua e là. Sospinto da un vento secco di parole che nessuno ferma più. Pensieri che disperdono le loro energie, pensieri gettati dentro un cassetto. Scrivere, pensare qualcosa. Il foglio esangue riflette il mio dolore. Il foglio esangue muore lentamente. Scrivere, pensare, morire. Il foglio ferito impazza di dolore, accanto già tondeggia qua e là. Sospinto da un vento secco di parole che nessuno ferma più. Il foglio ferito impazza di dolore, accanto già tondeggia qua e là. Sospinto da un vento tempo di parole che nessuno ferma più. Cestino accanto già. Yeah, I grew up.